Smart City, voci e luoghi dell'innovazione. Buonasera da Maurizio Melis. Una ricerca coordinata da Sergio Brovelli e Francesco Meinardi, fisici dell'Università di Milano Bicocca, svolta in collaborazione con il gruppo guidato da Iwan Morris dell'Istituto Italiano di Tecnologia di Genova e finanziato da Fondazione Cariplo e Comunità Europea, ha conquistato le pagine di Nature Communication grazie alla scoperta di un nuovo tipo di vernice luminescente che si accende, si attiva grazie alla presenza di ossigeno. Per parlarcene in linea con noi c'è appunto Sergio Brovelli, docente di fisica sperimentale all'Università Bicocca. Buonasera Brovelli, bentornato a Smart City. Buonasera a lei. Eccoci qua. Allora, prima cosa che le chiedo è che cosa ce ne facciamo di queste vernici luminescenti che reagiscono all'ossigeno? Ci facciamo dei bei pullover? No, bene, dunque, le vernici luminescenti sensibili all'ossigeno sono tipicamente impiegate in studi di aerodinamica, in cui si deve investigare, diciamo, l'effetto dei flussi d'aria su modelli di velivoli o di autovetture, oppure in tutti quegli ambiti che richiedono una conoscenza molto precisa dei flussi d'aria o in generale della pressione in sistemi complessi. Quindi, diciamo, quando bisogna studiare la fluidodinamica di qualcosa in modo approfondito si possono usare queste vernici. Esattamente. Perché? Perché prendiamo ad esempio il caso di studi di aerodinamica in galleria del vento. Per studiare diciamo, l'aerodinamica appunto di un velivolo, quello che si fa è si vernicia il velivolo con queste vernici luminescenti, lo si infila nel tunnel del vento e lo si illumina con una rampa d'ortevioletta. Quello che succede è che la vernice emette più o meno luce dipendentemente da quanto ossigeno c'è sulla sua superficie, quindi da quanta aria li passa sopra. Questo permette di fare dei film in tempo reale delle distribuzioni di pressione sulla superficie Perfetto. Del modello di velivolo. Perfetto, quindi a seconda di dove è più o meno illuminato, lì vuol dire che c'è una pressione maggiore o minore dell'aria o del fluido che in quel momento sta viaggiando, diciamo così. Ecco, qual è l'aspetto più innovativo della vostra ricerca? Sì, dunque, la questione è che le vernici fino ad ora commerciali, diciamo, si basano sul fatto che l'ossigeno spegne la luminescenza delle sostanze di cui sono composte. Questo perché l'ossigeno ha delle interazioni che tipicamente danneggiano, tra virgolette, i materiali luminescenti. L'aspetto innovativo della nostra ricerca è che siamo riusciti a individuare, a investigare un materiale che svolge una funzione inversa rispetto alla tradizione. Cioè i nostri materiali in presenza di ossigeno si illuminano di più, raddoppiano la loro luminescenza e quindi invece di generare, diciamo, un'immagine in negativo del modello esposto alla pressione, quando questo viene pitturato con le nostre vernici, l'immagine che viene ottenuta in uno studio aerodinamici è in positivo. Ecco, perché tra avere un'immagine positivo o in negativo è meglio avercela in positivo? Ce lo spiega? Diciamo, in generale è molto meglio avere un sensore che genera un segnale in risposta ad uno stimolo piuttosto che uno che spegne la sua capacità di generare un segnale. Quindi in questo caso la nostra vernice avverte l'utente che in una specifica posizione del modello c'è più ossigeno accendendosi. E questo aumenta anche il range dinamico, quindi quindi la precisione della misurazione sostanzialmente. Esattamente, perché nei sistemi tradizionali a un certo punto la vernice si spegne e basta. E quindi è difficile sapere se a quel punto la pressione è più bassa di un tot, insomma, a una certa soglia si spegne e basta, e da lì sotto non si capisce più niente di che cosa succede sostanzialmente. Invece qui siete più precisi. State lavorando anche su qualcos'altro? Quale sarà il prossimo step? Le fate stroboscopiche? Non lo so. No, il prossimo step su cui stiamo già lavorando e abbiamo già dati molto incoraggianti è quello di fare vernici fluorescenti sensibili all'ossigeno che però cambino il loro colore di luminescenza in presenza o in assenza di ossigeno. Questo è un effetto importantissimo perché si passa ad avere una misura in cui si richiede di misurare con precisione la quantità di luce ad una misura in cui invece è sufficiente misurarne il tipo, il colore. Certo. E quindi non richiede delle calibrazioni, non richiede delle misure quantitative. Anche solo per correggere gli effetti di distanza, diciamo, che quando bisogna misurare un flusso luminoso sono importantissimi. Correttamente. Ecco, abbiamo ancora qualche secondo, abbiamo parlato molto di applicazioni nel campo dell'aerodinamica. Dove altro c'è bisogno di misure di precisione di questo tipo? Un esempio lo abbiamo sotto gli occhi tutti i giorni, sono le lampadine a basso consumo, che ormai hanno completamente rimpiazzato quelle tradizionali. In queste è assolutamente necessario conoscere bene la pressione d'ossigeno o in generale di gas all'interno del bulbo. Sì, perché è il gas che c'è lì dentro che si accende sostanzialmente. Sì, esattamente. In particolare la presenza di ossigeno all'interno di questa lampadina generalmente le danneggia. Quindi è necessario conoscere con precisione se si è riusciti o meno a eliminarlo tutto. Va bene, grazie Brovelli. Grazie a lei, buonasera. Ci fermiamo qui, allora ci diamo appuntamento a domani. Buona serata a tutti.